Quando sono d'umore nero sto in giro per il quartiere, cerco i gatti, li butto nei cassonetti, sperando che i vecchi del vicinato mi dian del maleducato, così posso fargli sentire i miei ultimi pezzi. Me ne frego del purgatorio, do sfogo il mio repertorio d'accidenti, già la mattina mentre lavi i denti li lascio nelle bolle di sapone che volano al vento, così che quando scoppiano anche fuori le sentono. E penso mia figlia mi odi, la pettino in due secondi fregandomene dei nodi, e se la prende subito e mi tiene il muso il giorno intero, così io posso pensare, allora mi odio davvero, e trovo qualsiasi scusa, e chiunque mi dice qualcosa è qualcuno che mi accusa. Lasciatemi un po' stare che oggi non è giornata, e lascio il mondo fuori dalla mia porta chiusa. Se tutto quanto ti va storto e non c'è niente che possa migliorare, allora non ci pensare, perché quando l'umore nero mi prende l'unica cosa che penso davvero è lasciami stare. Non si può essere in forma ogni giorno uguale, beh, e un tot di volte tutto ti viene male, e allora? Però anche questa è una giornata da mandare giù. Lasciatemi stare. Sono arrabbiato. Quando sono d'umore nero quelle differenze che danno pepe al nostro rapporto sono i difetti che non sopporto. Capito? Non sei più imprevedibile, sei distratta, mi lasci sentire a pranzo? Vabbè, allora insalata. Il mio modo d'essere è l'unica via da perseguire calpestando gli infedeli, così sia. Non c'è destra né sinistra né religione che resista al mio giudizio disfattista. E un cibarsi del mio rancore che potrebbe andare avanti per ore, per mesi, per anni. E ancora finché perdi il senso della realtà, che vedi un fiume vuoi buttarti di là, così per limitare i danni vuoi spostarti dal tuo solito punto di vista e provare a metterti un po' nei panni degli altri. Amico mio, la depressione è un oblio in cui sono finito anch'io. Si incomincia coi parenti per poi avercela con Dio. Se tutto quanto ti va storto e non c'è niente che possa migliorare, allora non ci pensare, perché quando l'umore nero mi prende l'unica cosa che penso davvero è lasciami stare. Non si può essere in forma ogni giorno uguale, beh, e un tot di volte tutto ti viene male, e allora? Però anche questa è una giornata da mandare giù. Lasciatemi stare. Oh, ma ti tira il culo? Quando sono d'umore nero maledico il giorno che ho cominciato tutto ciò per cui fino a ieri ho lottato, e tutto quello che faccio sembra sbagliato, niente più senso, non mi fido nemmeno di quel che penso. Esco di casa depresso, attraverso senza guardare, momenti sto scemo mi investe, salgo sull'auto, parto senza guardare una donna che attraversa, mi chiedo cosa avesse per la testa. Oh, attenta! I sì diventano no e le certezze diventano boh, un lungo vagare per B.O. mentre guido penso a tutte le paturnie che ho, forse se mi rilasso alla fine mi riprenderò. Finalmente viene la sera, domani spero sia meglio, non cago nessuno, mi infila a letto svelto, il giorno dopo mi sveglio sereno, ma tutti quelli che ho mandato in sclero oggi sono d'umore nero. Tutto quanto ti va storto e non c'è niente che possa migliorare, non ci allora non ci pensare, perché quando l'umore nero mi prende l'unica cosa che penso davvero lasciami stare. Non si può essere in forma ogni giorno uguale, beh, e un tot di volte tutto ti viene male, e allora? Però anche questa è una giornata da mandare giù. Lasciatemi stare. Oh, tranquillo, Lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare.